Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata, era Deborah Rosciani e bentornati a Salva Danaio, terza puntata della nostra trasmissione dedicata al decreto anticrisi e ai provvedimenti per le famiglie, accompagnando, così è quello che stiamo facendo da lunedì, le guide in uscita appunto in questi giorni con il Sole 24 Ore. Oggi ritorniamo sul bonus straordinario per i nuclei familiari a basso reddito, però nel pacchetto, lo ricordiamo, ci sono anche aiuti per favorire l'accesso al credito a quelle famiglie che hanno allargato famiglia nel 2008. Agevolazioni sono state pensate per appunto famiglie con figli neonati, oltre alla conferma della detrazione sulla retta dell'asilo nido è previsto anche un rimborso spese per pannolini e latte artificiale, ne parleremo tra poco. C'è la social card, questa la conoscevamo già, e anche una rosa di provvedimenti presi su base regionale, ovviamente pacchetti che non rientrano nel decreto anticrisi, ma magari se avremo modo anche, in ogni caso ve lo raccontiamo già nella nostra scheda, parleremo anche di questi. Però oggi focalizzeremo l'attenzione proprio sulle bonus, sul bonus straordinario, perché ieri è stata diramata un'importante circolare dell'Agenzia delle Entrate in cui si precisano i termini dell'intervento e le modalità operative per accedere al bonus. Ci sono diverse novità rispetto a quello che si sapeva qualche giorno fa, e oggi tra l'altro il Sole 24 Ore pubblica il testo integrale del provvedimento appunto diramato ieri dall'Agenzia delle Entrate. Domani il Sole ritorna con una guida appositamente focalizzata di nuovo con tutti i dettagli sul bonus straordinario. Però noi oggi abbiamo ritenuto così utile tornare sull'argomento, proprio magari per commentare a caldo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Chi ci aiuterà questa mattina? Filomena Troise, area fiscale della CAF, del CAF CISL nazionale. Troise, buongiorno e grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Anche perché insomma sono proprio i centri di assistenza fiscale in questo momento ad aiutare tutti i contribuenti anche ad orientarsi nei numerosi provvedimenti per fortuna presi. Magari qualcuno lamenta che siano un po' cifre piccole, però magari a qualche reddito basso sono cifre che in ogni caso aiutano ad andare avanti, insomma questo è un sostegno in ogni caso che riteniamo sicuramente importante. Il problema è che per poter accedere a questi benefici a volte la strada si complica, e allora noi cercheremo stamattina di fare un po' di chiarezza. Ovviamente aiutateci anche voi con le vostre domande, 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione, ma ci potete come sempre anche scrivere al 349 238 6666. Rapidamente un'occhiata alla borsa: oggi positiva in Europa, Parigi più 1,23, Francoforte più 0,9%, Londra più 0,8, S&P MIBA Piazza Affari più 0,95%, svetta Fiat che aspetta un nuovo pacchetto di aiuti che dovrebbe arrivare nelle fine settimana con il Consiglio dei Ministri, il piano di sostegno al settore auto nel nostro paese, e in attesa appunto di questo intervento governativo Fiat sta facendo più 6% a Piazza Affari. Abbiamo un recupero oggi per un po' di titoli del settore bancario: Banco Popolare più 3,46, Mediobanca più 2,36, Popolare di Milano più 1,59. Abbiamo un rialzo di circa 3 punti anche per Tenaris, per Enel dopo i dati comunicati ieri, Saipem più 2,72, Impregilo più 2,52%. Segno meno invece su Fastweb, che è stata bocciata da una casa di investimento, da UBS, il titolo perde il 3%, torna a scendere il settore editoriale: Mondadori meno 1,77, Snam meno 0,8, Luxottica meno 0,6, Terna meno 0,6%, Mediolanum in ribasso di mezzo punto percentuale. Lasciamo però la borsa, andiamo subito nel vivo appunto della nostra trasmissione di questa mattina. Ritorniamo sugli interventi sul decreto anticrisi appunto varato dal governo di recente, e oggi ritorniamo sul pacchetto famiglia. Ultimi ritocchi per le misure pensate per la famiglia inserite nel decreto anticrisi. Tra questi le precisazioni arrivate ieri per il bonus famiglia, l'una tantum da 200 a 1000 euro previsto dal governo a sostegno di famiglie con reddito complessivo compreso fra 15.000 e 35.000 euro. In particolare il bonus apre ai nuclei familiari con persone disabili. anche se non si tratta dei figli del richiedente, e agli extracomunitari purché residenti in Italia, anche se i familiari a carico vivono all'estero. Nessun beneficio doppio invece per genitori separati o non sposati. L'altra novità riguarda i tempi di richiesta per il bonus, che si sono allungati. La domanda può essere presentata entro il 28 febbraio ai sostituti d'imposta. Di conseguenza, datori di lavoro ed enti pensionistici erogheranno il beneficio entro il 31 marzo 2009, e se il sostituto d'imposta non avrà i fondi per elargire le somme, il contribuente avrà un mese in più per presentare la domanda in via telematica alle Entrate. La scadenza è stata infatti prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2009. L'altro aiuto in arrivo riguarda le famiglie con un nuovo nato. La finanziaria 2009 istituisce un fondo di garanzia da 25 milioni di euro l'anno per 3 anni per favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie alle prese con un nuovo figlio, integrato da altri 10 milioni di euro nel caso di bambini affetti da malattie rare. È previsto inoltre un rimborso spese per pannolini e latte artificiale per i titolari di social card. Le modalità di questo intervento saranno chiarite entro fine mese. Diventa strutturale poi la detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. Infine, alcune regioni si sono mosse autonomamente con misure più simili al vecchio bonus bebè. Il Lazio concede un bonus da 500 euro per ogni nato del 2008 in una famiglia con ISEE fino a 20.000 euro. La Puglia assegna una dote per il sostegno a famiglie in difficoltà con i figli fino a 3 anni di età. E la Lombardia dedica un contributo di 1.500 euro in 3 rate ai nuclei con indicatore della situazione reddituale non superiore a 10.000 euro e almeno 3 figli minorenni, di cui uno sotto i 6 anni. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Vedo già numerosi ascoltatori pronti ad intervenire per raccontarci il proprio caso e per tentare di capire se rientrano con i propri parametri sia reddituali ma anche di composizione del nucleo familiare nel bonus. Allora, Filomena, Troise, dicevamo CAF, CISL nazionale, le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate che sono state diffuse ieri sono sicuramente molto importanti, anche perché scombinano un po', cambiano un po' le carte in tavola, nel senso che per tutti coloro che si erano già affrettati a fare richiesta, per esempio al proprio sostituto d'imposta, quindi alla propria azienda o magari al proprio ente previdenziale per ottenere il bonus, magari scopre adesso che gli è leggermente un po' cambiato il raggio d'azione. Voi ne avete gestite già 100.000 di pratiche, come stanno andando le cose? Cose stanno andando abbastanza bene, aspettavamo con ansia questi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate proprio per sbloccare una serie di problematiche che c'erano già state segnalate, ecco, dalle nostre strutture periferiche. Noi rappresentiamo, diciamo, un quinto sul territorio nazionale, quindi del totale delle pratiche, quindi diciamo che le pratiche già avanzate sono un numero consistente, ecco. Quindi 100.000 voi, se le vostre sono un quinto, voglio dire almeno 500.000 di famiglie in Italia sì, hanno già cominciato ad avviare la pratica per accedere al bonus, in sostanza. Esattamente, sì. Quindi sono molte. Sì. E sì. Allora andiamo. Sì, no, lei mi diceva tra l'altro tutti i dubbi che dovevamo chiarire nell'ambito dell'attività dei centri di assistenza fiscale erano molti. Quali erano i più importanti? Nel frattempo ci ha raggiunto Cristiano Dell'Oste, mio collega delle Sole 24 Ore, che anche ieri, insomma, gli è piombata l'Agenzia delle Entrate nel bel mezzo della giornata di lavoro e ci ha fatto, come dire, anche dubitare se fosse o meno utile portare avanti questa puntata. Abbiamo ritenuto di volerla fare ugualmente, tanto scopriamo insieme un po' tutte le novità che ha apportato. Mi scusi Troise, sì, l'avevo interrotta. I dubbi che avevano i centri di assistenza fiscale sul provvedimento? Sì, la prima riguarda appunto i residenti all'estero, cioè il dubbio era in quanto la norma parlava di nucleo i cui componenti residenti, però l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito della residenza viene richiesto solo in capo al richiedente, quindi se ha familiari, quindi coniuge, figli o altri familiari residenti all'estero, il requisito della residenza non è richiesto. L'importante è che abbia comunque diritto alle detrazioni, cioè si usufruisce delle detrazioni per familiari a carico, quindi la stessa documentazione che serve per richiedere detrazioni serve anche per richiedere il bonus. Mm-hmm. Questa è la prima cosa, poi c'è la questione invece del nucleo familiare con all'interno il portatore di handicap. Sì, questa diciamo che è una cosa abbastanza importante e è un passo avanti molto, molto diciamo importante che ha dato l'Agenzia delle Entrate. Però ovviamente ci sono da capire tutte quelle pratiche che noi abbiamo già gestito, che comunque i CAF, gli intermediari in genere, hanno già gestito, come possono queste persone recuperare una differenza che non è comunque di poco. Mm-mm. Quindi parliamo ad esempio di la circolare dell'Agenzia delle Entrate dice che il requisito del portatore di handicap può essere in capo sia al coniuge a carico che ai figli e agli altri familiari a carico. Quindi se un soggetto ha già presentato la richiesta e aveva il coniuge portatore di handicap, aveva comunque richiesto il bonus senza il requisito dell'handicap, perché appunto era circoscritto al figlio portatore di handicap. Adesso invece la platea si amplia, ecco. Esatto, come come poter integrare la dichiarazione, quindi recuperare quella differenza di cui ha diritto. Di cui ha diritto, certamente, infatti. Allora, sono tutti gli aspetti insomma sui quali torneremo nel corso della nostra trasmissione. Ne vedo già, appunto, come dicevo, di ascoltatori diversi pronti a proporci il proprio caso, però volevo magari cominciare anche a coinvolgere Cristiano Dell'Oste. Nulla cambia rispetto ai requisiti reddituali che sono necessari appunto per poter accedere al beneficio, Cristiano? Sì, proprio così. Restano invariate le fasce di reddito, resta invariato il numero di componenti che corrisponde alle varie fasce di reddito e ovviamente resta invariato l'ammontare del bonus, che è da 200 a 1000 euro pagati una tantum. Questo è un aspetto su cui spesso si fa confusione, perché da un lato si tende a confondere con la social card, che invece vale 40 euro al mese e teoricamente a tempo indeterminato, nel senso che fino a quando esistono i finanziamenti verranno erogati 40 euro. E poi un altro aspetto sul quale spesso si tende a fare confusione riguarda il fatto che, è vero, si può scegliere se utilizzare a base della richiesta i redditi e il nucleo familiare del 2007 o del 2008, ma il bonus viene erogato una volta sola e chi lo chiede in base ai redditi del 2007 non lo potrà poi richiedere in base ai redditi 2008. Quindi insomma ti ringrazio per queste precisazioni. Adesso invece andremo all'altro grande oggetto delle modifiche che sono state così precisate ieri con la direttiva dell'Agenzia delle Entrate, cioè la proroga dei termini entro i quali è possibile fare la domanda o al sostituto d'imposta o all'ente previdenziale se si è pensionati oppure direttamente all'Agenzia delle Entrate. Adesso su questi punti andremo, però intanto cominciamo a sciogliere anche qualche dubbio ai nostri ascoltatori all'800240024. Cominciamo con un papà, con Franco dalla provincia di Pavia, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, complimenti. Grazie. Un po' emozionato. No, non si emozioni. Ascolti, io vabbè, 3 o 4 giorni fa sono stato al CAF per vedere se poteva chiedere il bonus, essendo che c'ho un bambino che c'ha 6 mesi di vita, è una bambina di 4 anni, no? Sì. Ho presentato il reddito del 2007, sì, che era intorno ai 17.000 euro. Mi hanno detto che non rientro perché il bambino non posso metterlo dentro il reddito perché è nato nel 2008. Certo, perché Franco, nel 2008 il suo reddito qual è stato? Siccome io sono un autista ed era leggermente un po' più alto. Sì, proprio di quei 1000 euro, quasi 2000 euro in più. Però nel 2008, voglio dire, è arrivato a 20.000 euro? Sì, intorno ai 20.000 euro. E quindi ecco, avendoli magari superati anche di poco, Cristiano, e quindi perde, se lo so che è molto frustrante, però sì, qua c'è la durezza del limite, che basta sforarlo di un centesimo e purtroppo non si ha diritto al bonus. In questo caso, con un nucleo familiare di 4 componenti, contando anche la moglie e i 2 bambini, il reddito complessivo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro, sì. Filomena Troise, tra l'altro, il nostro ascoltatore ci diceva, ha un bambino di 3 mesi, però eccoli, così adesso mi veniva subito di primo acchito di suggerirgli magari di vedere se poteva ottenere il bonus per latte e pannolini. In realtà quello è un bonus di cui possono fruire coloro che già hanno, per esempio, fatto domanda per la social card, giusto? Sì. E quindi Franco... Se però la moglie, quindi il coniuge, non ha redditi, quindi non è lavoratrice, può chiedere l'assegno per il nuovo nato al comune di residenza. Quello c'è sempre e comunque ai fini ISE dovrebbe sicuramente rientrare. Dovrebbe rientrare. Circa 50.000 euro di ISE, quindi... Di tot, di reddito lordo massimo, diciamo. Sì, sì. Mm. Sì, e quindi insomma Giovanni magari proviamo a suggerire questa strada. Giovanni da Roma invece, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, desideravo sapere se il bonus di 1.000 euro spettante anche nel caso che il portatore di handicap sia l'unico componente familiare. Sì. Con reddito inferiore a 35.000. Se il portatore handicap è solo il titolare, ha diritto a questo bonus di 1.000 euro? Giovanni, domanda assolutamente pertinente, cerchiamo di chiarirla. Filomena Troise, secondo lei? Secondo me no, perché la circolare parla di coniuge e figli o altri familiari a carico, quindi è escluso il richiedente, anche perché l'articolo 1 parla di componenti per i quali ricorrono le condizioni di familiari a carico, quindi previsti dall'articolo 12 del TIR. Quindi il richiedente è assolutamente escluso, infatti anche Cristiano Dell'Oste insomma mi annuiva con la testa e quindi insomma abbiamo già dato due risposte negative anche ai due ascoltatori. Sì, questa è un'altra delle domande che ci sono arrivate insomma da quando un po' più di un mese fa abbiamo iniziato a scrivere di questi argomenti. E uno chissà quanto ancora scriverai. È uno dei paradossi, nel senso che spesso insomma c'è il caso del nucleo familiare composto da una sola persona. L'altra grande eccezione che così balza all'occhio è quella dei single, perché ovviamente chi è solo e quindi compone un nucleo familiare a sé stante ha diritto al bonus soltanto se è pensionato, non se è lavoratore dipendente con i redditi magari delle tipologie giuste, nella quantità giusta, ma appunto in questo caso la scelta è stata quella di privilegiare il pensionato. L'altra grande categoria di esclusi, non l'abbiamo ricordato, sono le partite IVA, quindi magari si fa come professione lavoratore autonomo, si percepisce globalmente un reddito molto basso, ma per il fatto di avere la partita IVA questo esclude appunto dal bonus. Certo, anche se c'è un piccolo chiarimento che poi è contenuto nella circolare che riguarda l'ipotesi della partita IVA legata ai redditi agrari. In questo caso, dato che ci sono 2.500 euro, che sono un limite che consente comunque di avere diritto al bonus, se nella produzione, appunto, nella conduzione dell'attività agricola si ha una partita IVA, in questo caso si è ammessi, ma è veramente una piccola eccezione. Una platea molto, molto contenuta di possibili destinatari. Allora, Mariella da Varese, le faccio fare la domanda, poi le rispondiamo nella seconda parte della nostra trasmissione, perché poi ci fermiamo per qualche minuto per le anticipazioni del GR Extra Large. Riesce a farci la sua domanda in 30 secondi, Mariella? spero di sì. Speriamo. Dunque, la mia situazione familiare, dunque io ho un posto di lavoro in regola a tempo indeterminato, sono in una situazione di separazione, cioè sono separata con una figlia a carico al 100% e convivo, cioè ho una convivenza con un uomo che anche lui è separato, ma che io e la mia bambina non rientriamo nel suo stato di famiglia. Sì. Ecco, io ho un reddito inferiore ai 17.000 euro annui, quindi vorrei capire se fare questa domanda per il bonus o no. Esplora per la prima volta questa possibilità, Mariella, o si è già rivolta magari ad un centro di assistenza fiscale, così ha cercato di capire? No, è la prima volta per me. Vabbè, tanto in quanto appunto... Cristiano, rimettiamoci le cuffie che riprendiamo la guida a pilotare la trasmissione di questa mattina a Salvadanaio dedicata appunto al bonus famiglia. Ieri le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità con cui intanto è possibile fare richiesta del bonus, ma soprattutto si precisano anche i contorni di chi ne ha diritto. Nulla cambia relativamente al termine reddituale, cambia qualcosa invece per quello che riguarda la platea dei possibili destinatari, perché abbiamo sentito in particolar modo modo nella prima parte del nostro programma, che ad esempio c'è la questione che è stata meglio definita del familiare a carico se portatore di handicap. Prima si contemplava solo la possibilità che fosse il figlio portatore di handicap nell'ambito del nucleo familiare, adesso invece si parla appunto di familiare a carico, quindi qui evidentemente forse la fascia di reddito all'interno della quale cambia un po' di più la platea dei possibili destinatari del bonus, che tra l'altro è la più alta, è quella di 1.000 euro, e poi insomma ci sono tante altre novità da spiegare. Oggi sicuramente è utile tutta la pubblicazione integrale del testo della direttiva dell'Agenzia delle Entrate sul Sole 24 ore, poi domani c'è di nuovo la guida ancor più operativa per addetti ai lavori, ma anche per chi non ha capito bene se ha diritto o meno a fare richiesta di questo bonus. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Eravamo rimasti al caso di Mariella da Varese, lavoratrice dipendente, separata, una bambina piccola, un reddito inferiore ai 17.000 euro, la figlia è a carico, ha una convivenza. Allora, Filomena, Troise, così consideravamo con Cristiano Dell'Oste a microfoni spenti che teoricamente se la sua separazione è come dire, stata formalizzata, teoricamente potrebbe aver diritto al bonus, no? Sì, direi con certezza che finalmente possiamo dare una buona risposta. Quindi sì, l'Agenzia delle Entrate poi nella circolare ha anche precisato che per i genitori non coniugati o separati possono scegliere comunque quale nucleo comporre, ecco. Quindi se c'è una sentenza che affida tutto al 100%, figlio, diceva Mariella, al 100%, sì, esatto, il figlio al genitore, il genitore tranquillamente tra i requisiti può includere il figlio nel proprio nucleo familiare. Ovviamente lo stesso figlio, non può comparire nel nucleo di un altro componente, quindi quindi magari Mariella deve accertarsi di questo, ma essendo affidata completamente a lei non credo che qualcuno vada ad arrogarsi il diritto di far comparire questa bambina in un altro nucleo familiare. Certo. No, tra l'altro diamo anche qualche indicazione operativa. Allora, Mariella scopre adesso di aver diritto a questo sostegno una tantum, nel caso di Mariella sarà di 300 euro perché è un nucleo familiare di due persone. Deve rivolgersi direttamente alla sua azienda, Mariella, per compilare tutta la modulistica che è necessario compilare in questo momento, oppure deve fare da sola, rintracciarla sul sito dell'Agenzia delle Entrate? Che cosa suggeriamo di fare? Andare a un CAF, i centri di assistenza fiscale ce l'hanno, credo? Assolutamente sì, i CAF possono tranquillamente prestare assistenza nella compilazione della richiesta in modo assolutamente gratuito, ci tengo a precisare, e poi sarà la contribuente che andrà presso il proprio sostituto a consegnare la richiesta compilata. Dico anche che noi come CAF abbiamo intrapreso una collaborazione con gli enti previdenziali, quindi INPS e INPDAP, ai quali possiamo trasmettere telematicamente le pratiche, e quindi il contribuente non deve fare altro che venire da noi. Noi compileremo la domanda e la trasmetteremo al sostituto. Con che documenti devono venire da voi i contribuenti, Troise? Beh, i documenti sono quelli reddituali, i codici fiscali dei componenti del nucleo, quindi tutte le certificazioni utili a stabilire quanto ammonta il reddito. Ma anche la certificazione attestante allo stato di famiglia, immagino, o no? Beh, diciamo che oggi con le nuove norme la condizione di stato di famiglia può essere anche autocertificata, perfetto. Noi CAF non abbiamo ovviamente obblighi particolari, però dando assistenza a tutti i contribuenti diamo le informazioni, poi se il contribuente non ci dice la verità se ne assume la responsabilità. Immagino. Certo. No, Mariella da Varese, abbiamo capito appunto che ha diritto all'erogazione del bonus. Entro quanto Cristiano deve presentare la sua domanda alla sua azienda? Allora, se chiede il bonus in base ai redditi conseguiti nel 2007, il termine è il 28 di febbraio. Questa è la famosa proroga che è stata introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto, e le istruzioni pubblicate ieri chiariscono anche un problema che era più, diciamo, legato ai sostituti d'imposta che non ai singoli contribuenti, ma che ha una ricaduta anche su di loro, perché il termine per l'erogazione del bonus era il 28 di febbraio, quindi si capisce subito che si andava ad avere una sovrapposizione di termini che scadevano appunto entrambi nello stesso giorno, ed era abbastanza evidente che chi avesse chiesto il bonus il 25 o il 27 di febbraio avrebbe poi fatto fatica a vederselo accreditato già il 28. In questo caso appunto si dice che datori ed enti pensionistici avranno tempo fino al 31 marzo per provvedere alla erogazione, quindi si viene anche un po' a dipanare una questione che era complessa. Tra l'altro, Filomena Troise, così anche questo un po' ce lo raccontavamo prima della trasmissione a microfoni spenti, siamo assolutamente sicuri che comunque presentando la domanda, per esempio il 28 febbraio, se facciamo valere il periodo d'imposta 2007, riusciamo, la nostra azienda nel giro di un mese ci eroga il bonus? Beh, diciamo che le aziende, i piccoli sostituti, le aziende private comunque possono, erogando la busta paga di marzo alla fine di marzo, possono includere sicuramente anche il bonus, mentre gli enti previdenziali diciamo che hanno dei meccanismi molto più ampi rispetto alla tempistica dell'erogazione, quindi è facile che una persona, che un soggetto che presenta la domanda dopo il 10 di febbraio, quindi tra il 10 e il 28, è possibile che possa ricevere il beneficio nella pensione di aprile. Nel mese successivo, però insomma esatto. Questo non deve spaventare chi magari però non lo vedesse nei tempi che la legge individua, perché in ogni caso non è un beneficio perso, sarà solamente certo. Una questione insomma di aggiustamenti proprio burocratici, il beneficio eventualmente slitta al mese successivo. Esatto. Enrico da Rimini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, innanzitutto volevo ringraziarvi, grazie mille, io faccio l'autista e ascolto con piacere la vostra radio. Meno male Enrico, facciamo tanta compagnia, sì, soprattutto a chi viaggia in continuazione, siamo proprio la radio delle auto, degli automobilisti. È vero. E dei camionisti. Volevo farvi questa domanda, io ho i miei genitori che sono totalmente inabili, tutti e due, sì. Hanno un'entrata di circa 19.000 euro annui e hanno un indicatore ISE di 7.000 euro. Volevo sapere se loro rientravano in questo bonus, ecco. Allora, Filomena, Troise, devono essere a carico di qualcuno queste due persone? Beh, se hanno 19.000 euro di reddito, diciamo che non rientrano nella possibilità di ricevere il bonus, in quanto per un nucleo familiare di due componenti il limite massimo è 17.000 e quindi non rileva il reddito ISE assolutamente, rileva il reddito complessivo. E quindi insomma anche in questo caso, se parliamo del sostegno legato al bonus famiglia, questo bonus straordinario, in questo caso queste due persone non possono, so che a volte veramente si così emergono delle questioni discutibili, no? Perché nel senso che è chiaro che questo Enrico pensa per due persone che sono totalmente inabili, come si fa a non pensare che non abbiano bisogno di un supporto economico come questo, però paradossalmente capita. Troise, sì, stava concludendo. Sì, volevo precisare che ovviamente parliamo di redditi imponibili IRPEF, quindi tutto quello che viene certificato dal CUD, per capirci. Se parliamo invece di redditi esenti come l'invalidità, l'indennità di accompagnamento, quelli non sono redditi imponibili, quindi magari non vengono conteggiati nel totale del reddito. Allora, stavo intanto controllando ancora nel testo della circolare pubblicato questa mattina se stiamo tenendo fuori ancora magari alcune precisazioni che è il caso di fare. Allora mi faccio intanto aiutare da altri ascoltatori. Andiamo sulla questione degli extracomunitari. Davide da Roma, buongiorno. Grazie per avermi concesso questo spazio e complimenti per la trasmissione. Allora, premetto innanzitutto, noi siamo un nucleo familiare di due persone. Io già presentai, in base al CUD 2007, rientro nei parametri al di sotto di 17.000 euro e già presentai la domanda presso il mio sostituto d'imposta, cioè il datore di sì. lavoro. Ora, sono venuto a conoscenza da voi che c'è una novità in base, diciamo, ai residenti, cioè ai cittadini extracomunitari che sono all'estero, che però dipendono da un cittadino extracomunitario residente in Italia. Sì. Mia moglie è cittadina extracomunitaria viene dalla Moldavia e ha due figli che sono residenti in Moldavia e dipendono direttamente da lei. Ora vorrei sapere se posso fare una nuova domanda in base a queste novità diramate dall'agenzia, in modo tale magari se ci rientrano anche loro. Davide, la ringrazio. Allora sentiamo un po', Filomena Troisi, se Davide la venisse a trovare, visto che è di Roma tra l'altro, al suo centro di assistenza fiscale, magari gli possiamo anche dare questa indicazione, così avere qualche esperto che gli dia un'occhiata alla sua situazione familiare, composizione del nucleo, stato reddituale, che cosa gli rispondiamo? Ma io direi che se il coniuge, quindi i figli sono solo della moglie, a quanto ho capito, quindi ovviamente per il richiedente questi figli sono da considerare altro familiare a carico, non come figli a carico, perché appunto non sono figli propri. Però per essere considerato altro familiare a carico, l'Agenzia delle Entrate dice che devono essere conviventi o dare un alimento non scaturente dall'autorità giudiziaria, per capirci, da provvedimenti. Quindi io diciamo credo che assolutamente che questi due figli non possono essere compresi nel nucleo di riferimento, e quindi insomma David è inutile, secondo la nostra interpretazione, che si avventuri nella presentazione di una nuova domanda e quindi riavvii da zero la pratica. Però insomma David, magari se si vuole togliere ogni scrupolo, si rivolga a un centro di assistenza fiscale di qualsiasi tipo. Noi abbiamo invitato molto spesso le ACLI, in questo caso stamattina abbiamo la CISL, un sindacato, quindi ci sono delle persone che gratuitamente devono valutare le singole situazioni, perché poi abbiamo capito che abbiamo stabilito assolutamente le regole generali, ma poi ogni caso fa proprio giurisprudenza a sé. E sì, continuavamo ancora così un po' di interrogarci sul caso di David da Roma con Cristiano Dell'Oste, così per capire se fosse magari anche ipotizzabile la strada per la compagna di David di fare domanda, lei in prima persona. Sì, diciamo che questa è... Però lei è già familiare a carico di David. Certo, ecco, certo. Quindi... No, questa è un'ipotesi che nasceva più che altro considerando lo spirito con cui è intervenuta la circolare, che pensa non tanto al cittadino residente extracomunitario che sia sposato, coniugato con un cittadino italiano, ma all'extracomunitario che vive, lavora in Italia, ha in Italia la residenza e ha però familiari o figli a carico all'estero, quindi nel paese d'origine. Mm-hmm. Questo è diciamo un po' il caso tipo, e il chiarimento va appunto nella direzione di consentire l'erogazione del bonus a questi soggetti. Sì. Edna da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica tutto. Io volevo chiedere un'informazione, siccome che sono stata licenziata a mese di gennaio, 9 gennaio mi hanno mandato lettere di licenziamento al mio datore di lavoro. Però informandomi in giro ho saputo che avevo un bonus che potevo richiedere il mio datore di lavoro. Io ho compilato il modulo, l'ho consegnato al mio datore di lavoro il 23 di gennaio. Sì. Quindi volevo chiedere se non avendo più il reddito sul tipo di busta paga, se ho il diritto, se per caso non mi paga il mio datore di lavoro mese di gennaio, che rivolgere o non so. Che cosa può fare, Edna? Beh, questa è una bella domanda, perché allora teoricamente questa ascoltatrice fa valere il suo periodo d'imposta, insomma il suo periodo di lavoro, o 2007-2008, poi non abbiamo capito quale farà valere, però adesso non percepisce alcun reddito. Dove glielo può accreditare il datore di lavoro qualora le fosse riconosciuta questa possibilità, Cristiano Dell'Oste? Ma questo è uno dei casi in cui il lavoratore, adesso poi possiamo sentire anche il CAF, sì, si trova di fatto a non avere poi il sostituto d'imposta al momento dell'erogazione del bonus, quindi... penso possa entrare in gioco l'Agenzia delle Entrate, però su questo vediamo a livello operativo. Filomena, ecco. Troisi, come interpreta lei questo caso? Sì, sono assolutamente d'accordo. Il sostituto d'imposta deve erogare il bonus in base ovviamente al monte ritenute disponibili e poi lo eroga nella busta paga, ecco, quindi nelle competenze. Non avendo più competenze da liquidare, non potrà erogare il beneficio all'ex dipendente, e quindi la signora potrà presentare istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile, oppure con i redditi 2008 potrà aspettare, magari se ha gli stessi requisiti, quindi se rimane comunque possibile beneficiaria può attendere o la dichiarazione dei redditi, magari trova un altro datore di lavoro al quale appunto presentare la dichiarazione dei redditi, oppure sempre all'Agenzia dell'Entrata. Però teoricamente la domanda che lei ha già inoltrato al suo ex, a questo punto sostituto d'imposta, sì, è da ritenersi non più valida, deve riattivarsi di nuovo l'ascoltatrice? Sì. Sì, credo proprio di sì. Questo istituto sarà obbligato comunque a comunicare al contribuente che non è più in grado di erogare il beneficio. Quindi questo è uno dei classici casi in cui c'è, visto che c'è l'opportunità di fare la domanda direttamente all'Agenzia delle Entrate, questo è uno dei casi in cui appunto si può esercitare il diritto al riconoscimento del bonus attraverso questa via. Cristiano, sì. Sì, diciamo di sì. Poi la ricaduta pratica, diciamo, piuttosto scomoda è che intanto la domanda andrà ripresentata e poi i tempi di erogazione del bonus che si allungano un po'. Certo. Però Edna, tanto forse vale la pena farlo comunque, non buttiamo via niente, anche 200-300 euro in questo periodo sono sicuramente magari un mese di spesa per lei, per cui se ha questo diritto si avvalga di questa opportunità fino in fondo. Danilo da Roma, buongiorno. Molti ascoltatori da Roma stamattina, li mandiamo tutti da Filomena Troise, a trasmissione finita. Danilo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, io un paio di mesi fa mi sono fatto fare il calcolo dell'ISE presso il mio CAF e non rientravo del bonus in questione. Solo che dal 15 dicembre mia moglie è entrata in cassa integrazione. Però l'ISE qua non c'entra, Danilo, lei doveva farsi fare l'individuazione del reddito lordo percepito nel periodo d'imposta considerato 2007-2008. Sì, forse l'ISE se l'era vale fatto per calcolare, la card. Infatti, per la social card. Danilo? Danilo? Per il bonus. Vabbè, allora qui magari adesso chiariamo anche alcuni... Comunque, detto questo, Danilo, lei si è fatto appunto individuare l'indicatore del suo reddito, quindi? Sopra di poco, comunque ero sopra. Però dal 15 dicembre, le ripeto, mia moglie è entrata in cassa integrazione. Che sì, ci sono delle proroghe per percepire questo bonus oppure è scaduto? No, allora non è scaduto niente. La questione è capire qual è il reddito che lei ha percepito o nel 2007 o nel 2008, e capire qual è il reddito più conveniente per poter fare questa domanda, soprattutto se ci rientra. Allora aiutami, Cristiano. Per l'ottenimento del bonus intanto l'ISE non conta. L'ISE non lo conta. Dico alla francese, però è l'ISE. Non conta. Questo purtroppo è un aspetto che è una complicazione introdotta dal legislatore, che usa due presupposti diversi per la social card, la carta acquisti, e per il bonus famiglia. Allora, per la social card il riferimento è appunto l'ISE, l'indicatore della situazione economica familiare, e una cosa importante, l'ISE non coincide col reddito, quindi un ISE di 6.000 euro non vuol dire che una persona abbia un reddito di 6.000 euro, perché ci sono dei coefficienti di riduzione che dipendono da tutta una serie di fattori, come ad esempio l'ampiezza del nucleo familiare e così via. Invece per il bonus famiglia il requisito di base da andare a controllare è il reddito complessivo, quindi in questo caso sì, si fa riferimento proprio alla voce che appare alla dicitura reddito complessivo nelle dichiarazioni reddituali. Quindi bisogna fare attenzione a non confondersi, perché può capitare, noi abbiamo fatto qualche esempio, che la stessa famiglia abbia diritto a entrambe, social card e bonus, oppure a uno solo dei due, perché i requisiti sono diversi. Tra l'altro lui continua a focalizzare l'attenzione, Danilo, sulla moglie, che è cassa integrata dal 15 dicembre, però bisogna capire appunto intanto chi fa la domanda e quanto possa aver modificato la cassa integrazione la situazione reddituale di questo nucleo familiare. 15 giorni in dicembre non credo che possa... Certo, e poi parliamo di dicembre 2008, quindi se esatto, vuole farlo sulla base dei redditi 2007, insomma è l'altro anno quello di riferimento, almeno in prima battuta. 800 24 00 24, ci sono tantissime domande che ci stanno arrivando anche al numero dei nostri appunto SMS, facciamo davvero fatica ad accontentare tutti. Comunque volevo magari, Cristiano, ricordiamolo per chi volesse prendersi un paio di giorni di tempo per capire se è nel diritto di fare la richiesta o meno del bonus, domani andate in edicola con la guida un po' più operativa rispetto alle circolari dell'Agenzia delle Entrate, invece il cui testo integrale è pubblicato oggi. Sì, domani dovrebbe uscire, uso il condizionale perché in realtà era prevista per oggi, sì, sveliamo sì, infatti, anche questo dettaglio. Sì, poi l'ho già detto all'inizio trasmissione, la stiamo proprio aggiornando, esatto. E sì, ci saranno alcune indicazioni pratiche riguardanti il bonus famiglia e gli altri provvedimenti contenuti nella manovra anticrisi destinati alle famiglie, quindi anche il famoso bonus pannolini e il 55% per le ristrutturazioni allora, edilizie. Visto che hai parlato di bonus pannolini e di bambini, abbiamo parlato tanto, tra l'altro non siamo riusciti neanche a ritornare sulle detrazioni per esempio per gli asili. Sentiamo il caso di Assunta da Napoli per concludere la nostra trasmissione. Assunta, benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. No, complimenti a lei perché vedo che ha un bimbo piccolissimo. Sì, ha 15 giorni. Congratulazioni allora. Grazie. Senta, volevo delle informazioni, che cosa ho diritto io visto che sono disoccupata e non sono sposata? È Assunta, diciamo che sicuramente per quello che riguarda il bonus famiglia non rientra. Filomena Troisi, insomma, alle questioni, come dire, anche personali, così problematiche come il caso di Assunta, come suggeriamo di muoverci? Non avendo un lavoro, un rapporto di lavoro dipendente, sicuramente esclusa dal bonus, purtroppo. Certo, sì. Assolutamente, perché appunto ci deve essere la presenza di un reddito ammesso al beneficio. E per la signora io consiglierei, come ho detto prima, di presentare l'istanza con il modello ISE al proprio comune di residenza per l'indennità di maternità prevista appunto dalla norma. Altre agevolazioni magari con la social card, perché avendo un bambino inferiore a 3 anni può richiedere appunto la social card, perché non avendo redditi sicuramente è nei limiti per usufruire. Certo, e tra l'altro potrebbe in questo modo evidentemente vedersi riconosciuto anche il bonus per il rimborso spesa per latte e pannolini. Però certo. Purtroppo abbiamo concluso anche oggi, abbiamo capito che al di là delle precisazioni arrivate ieri abbiamo ampliato ulteriormente il ginepraio delle informazioni, ma in ogni caso se ritenete di avere quelle condizioni o familiari reddituali tali per ricevere questo bonus, magari spendete un'ora del vostro tempo per andare ad un centro di assistenza fiscale per così un po' capire bene qual è la vostra situazione. Grazie a Filomena Troise per essere stata con noi, grazie anche a Cristiano Dell'Oste che lasciamo andare a lavorare perché deve dipanare anche lui la matassa delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate. Io ringrazio anche Valeria Coffare e Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica. Salvadanaio torna domani, buona giornata.